America 24 di Mario Platero. Buongiorno da New York, Mario Platero, benvenuti ad America 24. Il presidente Barack Obama ha lanciato l'ultima offensiva per passare la sua riforma sanitaria. Sentiamolo. Everything there is to say about healthcare has been said and just about everybody has said it. Tutto quello che c'era da dire sulla riforma sanitaria è stato detto. Non abbiamo più nulla da aggiungere, ha detto il presidente, e in un discorso che è stato diretto ai repubblicani in Congresso, oltre che ai suoi compagni di partito, ha proposto una integrazione di alcune proposte dei repubblicani nel progetto di legge, proposte che erano emerse nella riunione della settimana scorsa. L'obiettivo di Barack Obama, primo, proteggere tutti gli americani dagli abusi delle compagnie di assicurazione. Secondo, dare l'opportunità agli individui e alle piccole aziende di avere delle opportunità di sottoscrizione di polizze non dissimili da quelle che hanno i membri del Congresso. Terzo, ridurre il costo della sanità in America, che è straordinariamente elevato, arriva addirittura intorno al 12-13 del PIL, e soprattutto garantire a circa 47 milioni di americani che oggi non sono coperti l'assicurazione medica. Sentiamo cosa chiede in cambio il presidente. I believe the United States Congress owes the American people a final vote on healthcare reform. Ecco, questa è la proposta finale. Io credo, ha detto Obama, che gli americani abbiano il diritto di avere un voto finalmente sulla riforma sanitaria. E che tipo di voto? Un voto a maggioranza semplice. In questo modo, dal punto di vista democratico, non ci sarà il rischio di ostruzionismo al Senato, che richiede una maggioranza di 60 voti che oggi i democratici non hanno. Ci riuscirà? Ho i miei dubbi. Io credo che alla fine siamo arrivati non all'ultima offensiva, ma all'ultimo minuetto, all'ultimo gioco delle parti. Se i repubblicani non accetteranno questa apertura da parte di Barack Obama, alla fine i democratici, il presidente, il Congresso, la leadership del Congresso si sentiranno autorizzati a procedere con la cosiddetta riconciliazione rapida, che prevede il passaggio del progetto di legge del Senato alla Camera, per poi andare direttamente al voto con una maggioranza semplice, visto che si tratterà grosso modo di approvare il progetto già messo a punto e votato dal Senato. E occupiamoci adesso di un possibile concorrente di Barack Obama alle elezioni del 2012, il governatore del Texas, Rick Perry. We have to November, so I don't get confused that this is a marathon, not a sprint. La voce di Rick Perry, governatore del Texas, che ha appena vinto le primarie repubblicane con un forte vantaggio, 21 punti contro la sua sfidante Kay Bailey Hutchinson. Diciamolo, la sua voce non è delle più eccitanti, soprattutto se la confrontiamo con quella più incisiva e aggressiva di Barack Obama. Eppure questo candidato improvvisamente emerge come il nuovo prototipo del candidato repubblicano. Ha vinto, come vi ho detto, con un vantaggio di 21 punti. È uno dei pochissimi politici che era già in carica e che è riuscito a farsi confermare. Riesce a conquistare la destra dei Tea Parties, la destra che si mobilita alla base del partito. Sostiene di aver creato in Texas 630.000 nuovi posti di lavoro, quando nel resto del paese c'è la disoccupazione, di aver ridotto le tasse a 40.000 piccoli imprenditori. Ha puntato su educazione, sicurezza dei confini, il riassetto del bilancio dello Stato, e dice di aver fatto quello che secondo me sembra un altro miracolo, di aver ridotto, cioè, il disavanzo di 10 miliardi di dollari dal 2003 ad oggi, grazie a un taglio delle spese pubbliche. Insomma, una specie di piccolo sogno. Ecco, questo insieme di successi rende Rick Perry il vero candidato ideale per il Partito Repubblicano. E ora passiamo agli Oscar. Come vi avevo detto, riserveremo una piccola parte della trasmissione tutti i giorni ai candidati dell'Oscar. Ho intervistato l'altro giorno a un party a casa di Caterina Otto, una ragazza tedesca che fa a sua volta la regista, il grande attore, sottolineo grande perché secondo me ha fatto un'interpretazione magistrale, Charles Waltz in Inglourious Basterds. Se lo ricordate, interpretava il ruolo dell'ufficiale tedesco. Christoph Waltz, l'italiano nel film era perfetto. Sì, in film, ma in la verità è una storia completamente differente. Ma no, ma è perfetto anche adesso? No, non è perfetto, è un trucco. No. E come hai imparato sì. L'italiano? Non parlo, ma è la verità. Io solo pretendere una parola pretendere parola italiana, sì, si può pretendere, dire si capisce sì, sì. Allora prendo di parole latine del francese dell'inglese e lo fare come un'opera. So what is the expectation for the Oscar award? Zero. Ma come zero? No, come zero, 20%. Ecco, poi Christoph Waltz ci racconta che in passato ci furono altri tedeschi che hanno vinto un Oscar, ma Marlene Dietrich, gli chiediamo, non è mai stata nominata, non ha mai vinto? No, dice Waltz, dobbiamo rassegnarci, non c'è giustizia nel mondo, ma ci ricorda che è stata nominata almeno una volta per Marocco. Gli chiediamo poi come è andata con Tarantino, com'è lavorare con uno come Quentin Tarantino? It was a whirlwind, a hurricane. No, you know, he has this reputation of being wild and crazy. He's wild and crazy, but that's not the only thing. He is immensely sensitive and knowledgeable and he's a master of his craft. Ecco, lavorare con Tarantino, dice Waltz, e lavorare come con un uragano, ha questa reputazione di essere wild, selvaggio, di essere anche un po' crazy, pazzo, e tutto questo, dice, ma non è soltanto questo, è anche molto, molto sensibile, è un maestro, e tutto quello che avrei desiderato avere lavorando e che raramente ho avuto, con lui l'ho ottenuto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Jessica Simpson ieri sera si è confessata sul divano di Oprah Winfrey. La cantante e attrice ha detto di essere stata molto ferita dalle parole dell'ex fidanzato John Mayer, il quale aveva rivelato a Playboy che la Simpson a letto è una bomba al napalm. E noi simpatizziamo con lei, non è da gentleman raccontare certe cose, e dunque dedichiamo a lei la nostra canzone con la sua Where You Are. I swear I know you're here when I forget about my fears. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.